Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Inizia con una notizia appena battuta dalle agenzie, è una riga di notizia: all'Italia il comitato di lotta ha dichiarato uno sciopero di 24 ore a partire dalle 18 di adesso, per cui tra poco meno di un'ora, sciopero selvaggio come si chiama in gergo, però insomma in realtà da quello che leggiamo, ed è, ripeto, solo una riga di agenzia, sciopero di 24 ore dalle 18. All'Italia è uno dei temi di questa puntata, ma gli altri temi riguardano quello che sta capitando nel caso specifico all'industria dell'auto, nel caso ancora più specifico a General Motors, il colosso americano dell'auto, fino a pochi anni fa il numero uno al mondo, poi superata da Toyota, e sta precipitando di nuovo in borsa, meno 30% dopo che Deutsche Bank ha detto che in sostanza l'azione vale zero e del resto è già un dollaro o anche meno per azione, e questo avrà diciamo delle ripercussioni immediate in generale anche sull'occupazione americana. Oggi altri dati negativi, parleremo di nuovo di quello che sta succedendo al nostro tessuto di imprese, visto che c'è una rilevazione Istat sulla produzione industriale. Le difficoltà già le stiamo seguendo la settimana scorsa, che denunciano molte imprese, soprattutto piccole, anche imprese artigiane, nel ottenere prestiti bancari, un giro di vita da parte delle banche. Nonostante l'abbassamento dei tassi di interesse, non si abbassa il costo dei prestiti per ottenere prestiti bancari, e difficoltà che chiaramente non vanno date e imputate solo alle banche, perché allo stesso tempo le imprese italiane, ma non solo, sono le prese con un rallentamento, in alcuni casi stagnazione, in altre recessione economica mondiale, quindi hanno anche una difficoltà oggettiva nelle esportazioni, a cui appunto si somma anche una difficoltà nell'ottenere crediti a tassi, ai tassi precedenti, o perlomeno a ottenerli to cure. Ancora parleremo quindi in apertura di questi temi, avremo anche un approfondimento per quello che riguarda i mercati sulla giornata, perché la giornata oggi non era una giornata negativa. Francoforte continua a guadagnare il 2%, Parigi l'1,1%, Milano un po' più debole ma insomma guadagna lo 0,8%, l'America guadagna lo 0,7%, il Nasdaq è invariato, quindi la settimana si è aperta con il segno più. L'euro è a quota 1,2832. I titoli, segnaliamo che va molto bene Fondiaria Assai, più 6%, e anche Buzzi Unice guadagna il 6%, Telecom guadagna il 3,4%, il 3% lo guadagna Tenaris, il 2,80% lo guadagna Eni, Mediaset guadagna il 2,3%, Mondadori il 2,1%, Fiat guadagna il 2%, ancora UbiBank guadagna l'1,2% e Impregilo l'1,1%, come Atlantia, Saipem e le Generali l'1%, e il rialzo di Unipol e Fastweb. Chi perde? Autogrill il 5%, Geox il 4%, Bulgari il 2,6%, Banca Popolare di Milano il 2,5%, l'1,4% perde STMicroelectronics, l'1,2% Intesa San Paolo, l'1,1% il calo del Banco Popolare anche di Snam Rete Gas e di Seat Pagine Gialle. Quindi dal mercato oggi non arrivano, visto che si va alla chiusura in Europa, non dovrebbero arrivare notizie particolarmente allarmanti. Le notizie più allarmanti arrivano sul fronte industriale, ossia sul temuto trasferimento di questa crisi finanziaria da finanziaria a economica, e la rete di protezione che si cerca di attuare. A questo proposito, oggi il ministro Tremonti ha annunciato che entro Natale diversi paesi europei vareranno i propri piani di sostegno all'economia, quindi non è più il piano di sostegno alle banche, quello già c'è, o perlomeno c'è un decreto che deve essere approvato, ma il piano di sostegno all'economia. Oggi di tassi e ripercussioni sull'economia reale ha parlato anche Jean-Claude Trichet, lo ha fatto a San Paolo, l'ha fatto prima di un'intervista a una TV brasiliana, ma insomma a San Paolo sono riuniti i vertici anche delle banche centrali mondiali, e anche di questo avremo un breve accenno. 349-238-6666 per i vostri sms e le notizie in breve. Allora, partiamo proprio dal presidente della Banca Centrale Europea, che ha detto a dicembre: non escludiamo di tagliare nuovamente i tassi. E la stabilità dei prezzi, ossia il pericolo di inflazione, è rallentato, c'è stato un allentamento delle pressioni inflazionistiche, ecco perché a dicembre si può ipotizzare un taglio dei tassi di interesse. Sentiamo Trichet. When we take a decision to diminish rates, it is because the inflationary risks. Quando decidiamo di diminuire i tassi di interesse, è perché i rischi sul fronte dell'inflazione si sono allentati e perché con un livello inferiore del costo del denaro possiamo continuare ad assicurare la stabilità dei prezzi nel medio termine. Un certo numero di paesi che si è comportato correttamente nel passato e che ha un livello basso di debito pubblico, ora ha un certo spazio di manovra. Al contrario, alcuni paesi, sia in Europa che nel resto del mondo, sfortunatamente non si sono comportati così bene e presentano deficit significativi. Per loro, ovviamente, non c'è spazio di manovra. Riguardo ai paesi emergenti, nel passato abbiamo visto che hanno reagito bene in periodi di difficoltà. I paesi emergenti danno un contributo decisivo alla crescita globale e questa importante influenza va a loro riconosciuta. Credo che uno degli elementi principali della nuova architettura finanziaria sarà quello di dover dare maggiore importanza ai paesi emergenti all'interno delle istituzioni finanziarie, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. E ancora, per quello che riguarda General Motors, molti messaggi che arrivano, sì, meno 30% in borsa, gli analisti di Deutsche Bank hanno valutato il titolo pari a zero. Io ricordo che venerdì scorso General Motors aveva annunciato di disporre di liquidità minima per operare da qui fino alla fine dell'anno. Nel frattempo il bollettino della crisi, che ripeto si sta trasferendo all'economia reale e quindi non è più un bollettino purtroppo solo sui gruppi bancari o sulle società finanziarie, vede uno dei maggiori canali di vendita di prodotti elettronici in America, Circuit City, chiedere la bancarotta, cioè ha chiesto le procedure per il Chapter 11, praticamente ha avuto una contrazione totale delle vendite, non riesce più a garantire i pagamenti. Il colosso assicurativo americano IAG, quello travolto dalla crisi e quello in cui i manager, lo ricorderete forse, andarono il weekend prima del crack in vacanza pagando mezzo milione di dollari, tutti con famiglia, alberghi a $1,400 a notte, golf e quant'altro incluso, una vicenda grottesca, e si giustificarono dicendo: beh, non avevamo mica previsto la crisi la settimana dopo, non era in agenda, diciamo. E oggi AIG ha annunciato come sono messi i conti. Ebbene, ha perso al 30 settembre scorso 24 miliardi e mezzo di dollari, tant'è che è dovuto intervenire di nuovo il tesoro americano con una quota da un ingresso con 40 miliardi di dollari. Quindi i manager che mentre andavano in vacanza evidentemente non sapevano che al 30 settembre le perdite erano arrivate a 25 miliardi di dollari, che significa, diciamo, più di una manovra finanziaria per un anno di un paese come l'Italia. E va bene, Deutsche Post taglia 9.500 posti di lavoro negli Stati Uniti dopo che ha avuto un utile netto trimestrale 800 milioni di euro sotto le previsioni. L'Italia però in America questi posti di lavoro. E secondo il Financial Times c'è un'altra ondata di licenziamenti che arriverà a Wall Street, a Wall Street ma non solo purtroppo, 70.000 persone solo fra le aziende americane, soprattutto nell'investment banking, quindi per esempio Goldman Sachs ha già annunciato di ridurre del 10% la propria forza lavoro, si tratta di 3.200 persone almeno che perderanno il lavoro. Nel frattempo il Banco Santander, che è la seconda banca europea per valore di mercato, ha varato un aumento di capitale da 7 miliardi di euro attraverso la vendita di 1 miliardo e 600 mila nuove azioni. E sempre in tema bancario, citavamo oggi l'andamento di San Paolo, il titolo adesso è molto più stazionario rispetto alla mattina, però aveva avuto un buon andamento, adesso perde il 2%, addirittura sotto i 3 euro per azione. Mi era arrivato a guadagnare oltre 3% sull'ipotesi di un'uscita del direttore generale vicario Pietro Modiano, in descrizione di stampa che lo vorrebbero in, diciamo, in attrito con il numero uno di Intesa San Paolo, che è Corrado Passera. L'industria italiana, allora, la produzione industriale a settembre meno 0,4%, è corretto su base annua, il dato però è più pesante, meno 5,7% l'andamento della nostra produzione industriale. E comunque il dato, come si chiama in gergo, congiunturale, cioè mese su mese, non rispetto a un anno prima, è il più brutto, questo meno 0,4%, dal 1998. Ancora, oggi è uscito il dato sul gettito fiscale nei primi 9 mesi dell'anno. L'imposta sulle società, l'IRES, è calata del 5%, le entrate hanno fatto un più 2,3%, non va male l'IRPEF, o come si chiama adesso l'IRE, perché aumenta dell'8%, soprattutto grazie al rinnovo dei contratti che ha interessato alcuni comparti, tra cui il metalmeccanico e il mondo dei bancari. Ecco perché poi, secondo le spiegazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, l'IRPEF non va male nei primi 9 mesi dell'anno. All'Italia, allora, vi dico, non ci sono novità. Hanno annunciato qualche minuto fa, appena abbiamo aperto il programma, uno sciopero, i sindacati dell'Italia, a sorpresa, ecco perché si chiama selvaggio, che scatterà alle 18, quindi tra 40 minuti, e durerà 24 ore, in una giornata in cui oggettivamente il traffico e i mezzi di trasporto sono già messi abbastanza male. Selvaggio perché un preavviso di un'ora oggettivamente è difficile da accettare, pur comprendendo tutte le ragioni dei piloti e degli assistenti di volo. Allora, nel frattempo l'agenzia di stampa Radio Core sta battendo la notizia che il prestito ponte dovrà essere rimborsato da Alitalia, per cui dall'Italia e non dalla CAI, leggo assieme a voi l'agenzia, sembra che le Bruxelles sia intenzionata a bocciare il prestito ponte di 300 milioni di euro, quello che permise, lo ricordate, nel passaggio di consegne tra il governo Prodi e il governo Berlusconi, fu chiesto dall'entrante governo Berlusconi attraverso Gianni Letta all'uscente governo Prodi di portarlo da 150 a 300 milioni per garantire la continuità aziendale nei periodi, appunto, nei primi mesi di governo. Secondo quanto dice oggi Radio Core sulle 24 ore, in questi momenti l'Italia deve prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune da chi ne ha beneficiato, cioè l'Alitalia. La cosa importante, da quello che si capisce, è che siccome la CAI compra alcuni asset, alcune parti di Alitalia, non sarà la CAI a dover rimborsare questi 300 milioni, ma sarà Alitalia, e quindi, diciamo, lo Stato, e quindi tutti noi. Nel frattempo i giorni di sciopero annunciati dai sindacati oggi sono 14, prima dell'annuncio sorpresa di adesso. Già 17 voli cancellati nel pomeriggio da Fiumicino, voli all'Italia, forti ritardi oltre le 2 ore, passeggeri arrabbiati dinanzi ai banchi di informazione della compagnia di bandiera. Il garante degli scioperi, Antonio Martone, garante sullo sciopero nei servizi pubblici, ha convocato i piloti, gli assistenti di volo per giovedì prossimo alle 10, sembra a questo punto un po' tardi. Nel frattempo il sit-in dei lavoratori dell'Italia oggi ha impedito anche l'accesso a piloti hostess di altre compagnie aeree, e al sit-in hanno partecipato 300 persone tra hostess, personale di terra e qualche pilota. Il nostro Andrea Viali, che è a Fiumicino e sta seguendo l'agitazione, ha intervistato Fabio Frati della CUB Trasporti, uno dei promotori del comitato di lotta, che ha spiegato al suo microfono le motivazioni di questa mobilitazione. I lavoratori non hanno nessuna intenzione di mobilitare, perché tanta rabbia. abbia tanta frustrazione di fronte alla sordità del governo e dei suoi ministri che continuano a ribadire che non ascolterà. Stiamo chiedendo solamente rispetto della legalità, rispetto dei contratti, rispetto delle clausole sociali che invece questi signori vogliono calpestare. I 14 giorni proclamati dalle sigle sindacali che sono contrarie all'accordo con CAI non vi bastano. Noi come Cuba Trasporti abbiamo proclamato quello del 25, eccetera. Gli altri hanno fatto questa strada, cosa. Io penso che comunque la partita debba essere giocata prima che CAI, perché dopo continueranno le rivendicazioni, ma però metà di noi non ci sarà. Il problema è che CAI vuole espellere oltre 10.000 persone, per cui vorremmo dire qualche cosa prima. Ecco perché c'è tanta determinazione da parte della categoria di fare alcune cose adesso, al di là di altre organizzazioni che possano magari valutare di avere tempi più lunghi. Insomma, per noi è un'illusione. Purtroppo queste organizzazioni sindacali hanno condotto la categoria di fatto a una disfatta, che siamo arrivati al 10 novembre e siamo in queste condizioni. Le cose in maniera più chiara avremmo dovuto dirle anche prima, ma non è mai troppo tardi. Noi speriamo che qualcuno ci ascolti, qui non c'è nessuno che ti prende privilegi, noi siamo anche in Italia la categoria all'interno del mondo del lavoro e pagata di meno delle altre, se uno taglia una linea pedale di distribuzione noi siamo nella parte della metà inferiore. E i miei colleghi, io sono il personale terra, l'80% sono precari, che guadagnano tra i 600 e gli 800 euro al mese, io non so proprio che CAI cosa voglia, eppure diciamo con il decreto Berlusconi ci tagliano lo stipendio, sanità media di circa 200 euro al mese. Allora, sì, alcuni dicono ci tolgono l'ICI, poi ci fanno pagare 300 milioni per l'Italia. E vabbè, andiamo avanti con le notizie, perché alcuni di voi fanno notare giustamente che questa mattina era stata molto buona la chiusura in Asia. È vero, Tokyo più 5,81 e Hong Kong più 3,52%, e sembrava che questo dovesse essere già in là per una buona giornata di borsa. Adesso gli indici sono sempre positivi, ma non sui massimi della giornata. Che cosa era piaciuto alle borse asiatiche questa mattina? Beh, la manovra cinese da 600 miliardi di dollari, una manovra, lo ricordo, approvata nel fine settimana, un pacchetto di stimolo all'economia lanciato dalla stessa Cina. Ora che la Cina, che per anni è cresciuta con ritmi dell'11-12%, debba lanciare un pacchetto di stimolo all'economia da 600 miliardi di dollari, è una buona notizia nel breve termine, ma la dice lunga sulle preoccupazioni nel medio termine, se anche la Cina deve dar vigore alla sua economia. E vabbè, ma noi intanto abbiamo il problema di Alitalia. Devo dire che oggi alcune sigle sindacali si erano opposte al blocco totale e immediato del trasporto aereo, lo aveva fatto il presidente dell'ANPAC Fabio Berti e altri soggetti, però questo prima che venisse annunciato uno sciopero pochi minuti fa di 24 ore. Ancora, dato da cui partiamo adesso, però al di là di Alitalia, vedremo se ci sono aggiornamenti, è il dato dell'Istat sulla produzione industriale italiana a settembre, quindi ha due mesi di ritardo, ma il dato è comunque di quelli che preoccupano. Meno 5,7% rispetto al settembre del 2007, ma soprattutto meno 0,4% rispetto, meno 2,1% scusatemi, rispetto ad agosto, e quindi mese su mese, e questo dato, cioè il mese su mese, segna la contrazione più forte dal dicembre del 1998. Siamo tornati come dato negativo a 10 anni fa, pesa soprattutto la produzione di autoveicoli, meno 26%, e i segnali sono che questa debolezza continuerà, ossia non sarà purtroppo un mese isolato. Andiamo con ordine, sentiamo innanzitutto questa scheda quali sono i settori che hanno accusato i colpi maggiori. Il quinto mese consecutivo di calo produttivo e la flessione mensile più marcata degli ultimi 10 anni lasciano intendere come sulla nostra industria stiano purtroppo già spirando venti di recessione. In questo momento a soffrire più di tutti è l'industria dell'auto. Lo scorso settembre dagli stabilimenti italiani sono infatti uscite ben il 26% di vetture in meno rispetto a un anno fa. La gelata di inizio autunno ha però colpito duro anche il polo della moda. Abbigliamento e calzaturiero hanno perso rispettivamente l'8 e il 19%. Settembre da dimenticare poi per l'elettronica, meno 10%. e a faticare è stata persino la colonna portante della nostra industria, vale a dire la meccanica, che ha archiviato il mese con un calo su base annua del 6,5%. Flessione del 4% infine per l'industria alimentare, mentre è riuscita a contenere le perdite la chimica, in discesa di un modesto 0,4%. Solo un settore è stato capace di muoversi controcorrente. È quello dei mobili, che ha registrato un aumento della produzione del 2%. Una conferma del difficile momento della nostra industria arriva anche dai dati diffusi oggi relativi all'IRES, ovvero l'imposta che si applica sulle società, il cui gettito è sceso del 5% nei primi 9 mesi del 2008, attestandosi a 26 miliardi di euro. Questi dati, vedo che molti messaggi riguardano la decisione di Bruxelles, aspettiamo la notizia ufficiale, che sembra intenzionata a definire 300 milioni di euro di aiuto per l'Italia come aiuto di Stato, e quindi all'Italia, non la CAI, dovrà ridarli. Non è che li paghiamo due volte, semplicemente la Bruxelles ritiene che quei 300 milioni lo Stato italiano non dovesse garantirli, quindi vuole che all'Italia, che appartiene allo Stato italiano, dia quei soldi. Non è che li paghiamo due volte, li abbiamo già pagati, e semplicemente questo peggiorerà i conti della Bad Company, se abbiamo ben capito quanto riportato dall'agenzia Radio Core. La vera notizia è che non li dovrà ripagare la CAI, cioè i privati che comprano all'Italia, quindi in sostanza è una partita di giro, ma resta in tasca nostra, o la prendiamo in tasca noi, per meglio dire. Ancora sulla produzione industriale, secondo il Centro Studi Confindustria, la debolezza proseguirà anche nel mese di ottobre, dove vi sarà un'altra diminuzione del 2,6%, come ha spiegato il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi nel corso del nostro GR Extra Large a microfono di Simone Spezia. Non è solo il settore automobilistico, tanto è vero che i beni non durevoli, la produzione di beni non durevoli è scesa del 3-5%, quindi molto di più di quella dei beni durevoli, parlo di variazioni mensili, e scendono molto anche le produzioni di beni di investimento, meno 2,5%, è una previsione attesa, questa caduta forte verticale in settembre, forse a ottobre ci sarà una mini stabilizzazione, anche se però poi a ottobre abbiamo avuto una veramente forte contrazione di tutti gli ordini, e quindi ci aspettiamo ancora dati negativi per novembre e dicembre. È l'esplicarsi di quella recessione della quale voi parlavate? Sì, anche se si sta manifestando in un modo ancora più forte di quel che si pensava, e questo perché sulle cause tra virgolette normali della recessione, cioè il rialzo dei prezzi delle materie prime, la rivalutazione del dollaro, la crisi immobiliare, cause che sono state, diciamo, forti in passato e che hanno effetti ritardati, si è innescata la crisi finanziaria, la crisi bancaria, con il fallimento di Lehman e tutto quello che ne è seguito. Si è detto molto spesso che l'impatto di questa crisi finanziaria sul nostro paese sarebbe stato piuttosto limitato. In realtà, da quello che stiamo vedendo, anche dai dati sull'economia reale come quelli di oggi, non è così. Consideriamo due aspetti. Il primo è che la nostra economia non è più forte delle altre dal punto di vista delle tendenze di fondo, della crescita potenziale. La nostra crescita potenziale è più bassa, lo è stata nell'arco di tutti gli anni 90, prima metà degli anni 2000, e quindi in ogni caso risentiamo. In secondo luogo vengono colpiti due settori importanti per il Made in Italy, quelli di beni di investimento, cioè la meccanica, e quelli di lusso abbordabile, cioè non il lusso, l'alto di gamma del lusso, ma un lusso, diciamo, un pochino più basso. In entrambi i casi si tratta di beni il cui acquisto può essere rinviato, e quindi ne risentiamo. L'Italia è un paese strettamente connesso con le altre nazioni, anzi negli ultimi anni la fonte principale di sviluppo derivava dalle esportazioni e le imprese, grazie all'internazionalizzazione, erano riuscite a crescere la presenza all'estero e a crescere l'importanza dell'export, quindi la crisi globale ci colpisce. D'altra parte è vero che, come dicevo prima, ci sono cause strutturali domestiche e queste vanno considerate come un'opportunità, nel senso che riforme e interventi mirati a sbloccare l'economia italiana potrebbero innalzare il nostro potenziale di sviluppo e farci ripartire meglio dopo la crisi rispetto a quanto facessimo quando siamo entrati. E quindi, come spiegava il direttore del Centro Studi Confindustria Paolazzi al nostro Simone Spezia, c'è la alcuni l'hanno chiamata la tempesta perfetta. Ahimè, si sommano diversi aspetti: la crisi finanziaria con i danni che ha causato ai bilanci delle banche, ma non solo, di tutti quelli che hanno comprato, magari suggerite dalle banche stesse, prodotti poi risultati tossici. E questa crisi finanziaria si somma a una debolezza comunque economica mondiale che già era attesa. La somma di queste due cose crea appunto una tempesta perfetta a livello mondiale, e allora le imprese hanno difficoltà a ottenere prestiti o comunque ottenerli con i tassi di prima dalle banche. Nel frattempo hanno difficoltà anche a esportare, perché si stanno fermando alcune economie fondamentali per il nostro paese, e in primo luogo la Germania, ma non solo. E sul calo della produzione industriale e più in generale sul difficile momento dell'economia a livello globale, pensate a quello che sta capitando oggi a General Motors. Insomma, General Motors era fino a qualche anno fa il numero uno al mondo nelle auto. Beh, dicevo, su questo è intervenuto il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Alberto Bombassei. Poco fa ha parlato a margine del convegno sulla crisi finanziaria che si sta svolgendo alla Borsa Italiana qui a Milano, al microfono della nostra Anna Marino. Le difficoltà ci sono, non voglio fare del facile ottimismo, io credo che però ci sia una componente anche psicologica che, se spiegata e capita, contribuisce a rimettere in moto quelli che sono i consumi. Quindi almeno per la parte psicologica dovremmo essere tutti ottimisti nel cercare di rimettere in moto i consumi e quindi aiutarci a vicenda, perché è un fenomeno che deve essere rimosso anche in questo senso. La produzione industriale, l'Istat oggi ha segnalato che ha avuto un rallentamento forte, ecco, da questo punto di vista l'ottimismo deve guidare per risollevare anche questo settore. Questa parte dell'anno credo che sia sicuramente peggiore, questi ultimi due mesi, perché sono le due componenti a cui accennavo prima che si sommano. Io spero che, se le cose si chiariscono, il 2009 possa essere pianificato, pur essendo un anno difficile, ma che, se pianificato, in qualche modo possa essere fatto in maniera non così negativa. Ancora, oggi l'indagine di Federmeccanica sull'andamento nei tre mesi del settore metalmeccanico vede un calo del 2,7% nei primi otto mesi dell'anno, e cala anche l'occupazione. Il peggioramento poi dovrebbe continuare anche nel 2009, come ha spiegato il vicepresidente di Federmeccanica Luciano Miotto, che anche detto che, insomma, la crisi si sta purtroppo allargando a tutti i settori della meccanica. L'analisi è chiaro che parte da una sfilza di dati che possiamo considerare sostanzialmente negativi. Da noi le difficoltà erano incominciate già con l'inizio dell'anno. Alcuni comparti, in maniera abbastanza chiara, davano segni di rallentamento. Rallentamento che oggi, purtroppo, alla luce degli ultimi eventi maturati da settembre in qua, sembrano effettivamente allargarsi e dilatarsi un po' in tutti quanti i comparti, anche quelli che tradizionalmente ci davano segnali di tirare quel comparto. Sto parlando in particolare del comparto macchina utensile, che per noi, abituati ad esportare essenzialmente in Germania, Francia e Stati Uniti, questo era un comparto che di fatto aveva sempre funzionato. Adesso notiamo che anche questo comparto si aggiunge a comparti che hanno maggiore difficoltà, quali possono essere i comparti del bianco, dove tradizionalmente le cose non andavano già da prima. Aggiungiamoci che lo scenario generale è per il 2009 è un meno 0,6%. Allora, alcuni di voi vogliono il gufo, no, il gufo oggi è in crisi di identità, non ce la fa più nemmeno lui, ma al di là delle battute, giustamente veniva citato il settore delle macchine utensili, che sono quelle macchine che vengono prodotte per produrre macchine, un settore di forza della nostra industria metalmeccanica, e anche quello arranca. Allora, vediamo un po' il resto di questa crisi come si svilupperà. Io dico una cosa che ci scrive: era abbastanza immaginabile che prima o poi i danni, se la stima è di 1.300 miliardi di dollari di danno complessivo causato dai prodotti tossici americani al sistema, è una cifra che neanche riusciamo a immaginare. 1.300 miliardi sono 1.000, diciamo, sono 100 manovre, scusatemi, 100 manovre finanziarie italiane, cioè le manovre finanziarie da qua ai prossimi 100 anni a valori correnti, insomma, una cosa folle. E se non riusci- è il PIL di tutta l'Italia in un anno, no? È ovvio che questa cosa si sarebbe trasferita sull'economia reale. Il problema adesso è capire che la rete di protezione dalle banche si deve estendere anche alle imprese, al mondo delle imprese, e soprattutto, se mi permettete, anche ai consumi, cioè va mantenuto il potere d'acquisto dei pensionati, lavoratori dipendenti. Questo, il potere d'acquisto si mantiene a non licenziando e quindi garantendo alle imprese la possibilità di avere credito, prima regola fondamentale, e poi anche se vogliamo riusciamo a trovare delle formule di agevolazioni fiscali per i redditi più bassi, non per tutti, per favore, nel senso che c'è chi in questi anni qualche soldo l'ha messo da parte, a giudicare dai consumi dei beni di maggior lusso. Comunque, la borsa con Eleonora Micheli, Radio Colle Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Lasciamo stare il settore auto, di cui parleremo fra un secondo. La giornata si chiude bene, molto bene in Asia questa mattina, dopo l'iniezione da 600 miliardi del governo cinese. Perfino la Cina ha bisogno di stimolare la propria economia con 600 miliardi di dollari. Bene Parigi più 1,1, Francoforte più 1,8, Londra più 0,9, Milano più 0,7% sui due indici. Partiamo da Fondiaria Assai più 6,5, ma anche Buzzi Unice e Metenaris rispettivamente più 6 e più 3,80%. Esatto, Fondiaria Assai è il titolo che ha fatto, è uno di quelli che ha fatto meglio tra quelli a maggior capitalizzazione. Le azioni sono ben comprate in verità da più sedute. Il rally si può dire che è partito ormai da un bel po' di tempo, dal 10 di ottobre. Da quella data le Fonsai hanno guadagnato oltre il 40%. Non ci sono motivi particolari, se non il fatto che probabilmente nel periodo di crisi erano tra le azioni invece che erano state vendute con maggiore convinzione, anche temendo che magari nel comparto assicurativo l'azienda sia una di quelle che ha un livello di solvibilità più basso. Detto questo, appunto, la risalita è stata quindi più vivace e continua anche in questi giorni. Ancora sulle fondiere, Buzzi Unice e Metenaris, motivi particolari? Buzzi Unice, ma anche in questo caso si tratta di un recupero. Per quanto riguarda invece Tenaris, si può dire che è andato bene tutto il comparto dell'energia. Tenaris si muove sempre insieme al comparto dell'energia. E questo appunto proprio per il piano varato in Cina, di cui hai fatto menzione poco fa proprio tu, da 600 miliardi, che dovrebbe sostenere proprio il settore dei metalli e dell'energia. Ancora per quello che riguarda i titoli, infatti tu citavi l'energia, Eni più 2,4 e poco altro nel settore energia. Bene invece Mediaset più 2,8, Mondadori più 2,5, Fiat più 2%, e non è cosa da poco visti i problemi del settore auto. Telecom più 1,4, Fasto più 1,4 come l'automatica. Allora Eleonora, i titoli che hanno più perso: Geox meno 5,2, Autogrill meno 5, Bulgari meno 3,4, oggi bancari più calmi, la Banca Popolare di Milano meno 1,9, il Banco Popolare meno 1,1, e nel finale vedo che anche Intesa San Paolo ha recuperato rispetto al calo che registrava poco prima della seduta. Tra l'altro UbiBanca più 0,36, Unicredit più 1%. Allora, Intesa chiude praticamente invariata 3 euro per azione. Geox e Autogrill. Sì, per quanto riguarda sia Geox che Autogrill, va tenuto conto che va avanti la stagione delle trimestrali. Se Geox darà i conti venerdì, invece Autogrill li ha dati la settimana scorsa, e sono conti che, su cui gli analisti hanno un po' puntato l'indice, perché alcune voci soprattutto sono risultate deludenti, tant'è che alcune case di investimento hanno rivisto al ribasso le raccomandazioni, e quindi appunto le azioni stanno un po' pagando le conseguenze. Soprattutto quello che dicono gli esperti è che, anche ammesso e concesso che la società, come è stato detto dai vertici dell'azienda, riesca a confermare i target per fine anno, d'altra parte il vero punto interrogativo sarà il 2009, su cui tutti hanno un grande timore. Allora, sì, che si abbia un timore sul 2009 è assolutamente giustificato. C'è chi il timore ce l'ha quasi come terrore, ed è l'industria dell'auto americana in questo caso. Per carità, tutta l'industria dell'auto è in difficoltà, abbiamo visto i dati sulle matricolazioni europee, Fiat ha perso molto in questi mesi, ma insomma la patria dell'industria automobilistica è quella che rischia, e non c'è nessuna esagerazione in questo momento, di vedere scomparire il simbolo stesso dell'industria delle quattro ruote, l'ex colosso, l'ex numero uno, General Motors. $2.5 miliardi è quanto ha perso GM negli ultimi tre mesi, e ha anche bruciato $7 miliardi di liquidità. Venerdì scorso il gruppo, che controlla tra l'altro il marchio Opel in Europa, annuncia potremmo avere o non avere soldi, o avere soldi solo fino al 31 dicembre. Il che significa potremmo avere in cassa meno di $11 miliardi al mese dal 31 dicembre. Questo è quello che serve a General Motors per funzionare regolarmente, pagare stipendi, fornitori, quant'altro, bollette. Non va molto meglio per Ford, che ha avuto $380 milioni di perdite, poi è riuscita con un trasferimento di passività per oltre 2 miliardi a migliorarle, altrimenti sarebbero stati 2 miliardi e 700 milioni di rosso. Anche Ford in tre mesi ha bruciato quasi $8 miliardi di liquidità e ha annunciato licenziamento di altre 8.000 persone. Non a caso tutti i big americani hanno chiesto al congresso statunitense un pacchetto di aiuti da $50 miliardi. Nel frattempo Volkswagen in Europa va bene, gli utili sono stati più 28%, anche Fiat ha fatto più 18% di utili, Renault leggermente in calo meno 2%, Toyota ha avuto un problemuccio non da poco, ha avuto un calo del 56% degli utili nel terzo trimestre a €4 miliardi, e anche i ricavi sono calati del 12%. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo adesso, poi continuiamo il ragionamento nella seconda ora del programma. 3 milioni di posti di lavoro a rischio in America, a Detroit, la capitale mondiale delle quattro ruote. Perché poi parliamo anche dei valori di borsa, che ormai hanno raggiunto una cifra ridicola. Scrivevate giustamente sul Sole 24 Ore di ieri: General Motors vale in borsa quanto Geox. Ora, con tutto rispetto per l'azienda di Moretti Polegato, General Motors ha delle dimensioni un po' diverse. Partiamo dalla crisi, perché soprattutto nell'auto? Beh, soprattutto nell'auto, perché ci sono due componenti. Una, possiamo definirla storica: i colossi dell'auto americani, General Motors e Ford, sono in crisi da anni se non da decenni, hanno progressivamente perso quote di mercato sul mercato interno, e quindi diciamo sono andate avanti così, tentando di ristrutturarsi con scarso successo nel corso degli ultimi 10 anni. Si sono retti in piedi finora, diciamo, su due pilastri sostanzialmente. Uno è il successo nei cosiddetti light truck, quindi i SUV, i monovolume, i furgoni, su cui hanno puntato molto e che gli hanno garantito il grosso, se non tutti, i profitti fino all'anno scorso. Due, su un certo successo al di fuori degli Stati Uniti. Sia GM che Ford, lo sappiamo, sono molto presenti in Europa, hai citato la Opel, la Ford stessa è una grossa filiale. Sui mercati emergenti GM è molto forte in Cina, in Brasile, anche in Russia. Ora, cos'è successo quest'anno? Prima, il boom del prezzo del petrolio, che ha praticamente messo fuori mercato i SUV e i furgoni, o quantomeno i più grossi, provocando un crollo delle vendite con cali dal 30 al 40 al 50% per questi modelli. Secondo, quando il petrolio è tornato, diciamo, a livelli più ragionevoli, c'è stato l'esplodere della crisi finanziaria. Negli Stati Uniti il grosso delle vendite a privati sono a rate, quindi finanziate, e GM e Ford non sono stati più in grado, né con le loro finanziarie né tramite le banche, di finanziare la clientela, e quindi c'è stato un crollo del mercato. Possiamo citare solo un numero: nel 2007 sono stati venduti negli Stati Uniti oltre 16 milioni di veicoli, compresi appunto i light truck. A ottobre il tasso, diciamo, riportato su base annua, le vendite di ottobre sono a un livello che è di poco superiore ai 10 milioni, si arriverebbe se avessimo 12 mesi come ottobre. Quindi un crollo da 16 a poco più di 10 milioni può avere delle conseguenze immaginabili su GM e Ford, che hanno ancora nel mercato americano il loro punto di forza. Ecco, prima di andare, di lasciare la linea al GR, poi torniamo a ragionare del settore auto, Andrea Malan, possiamo dire che in questo caso la crisi di General Motors e di Ford è più industriale che dovuta ai prodotti tossici, o anche qui c'entra la crisi finanziaria americana? Sicuramente la crisi finanziaria ha aggravato la loro situazione, esatto. Non dimentichiamo che in questi mesi, per esempio, anche Toyota, Honda, che sono molto forti negli Stati Uniti, hanno dovuto subire, certo, dei grossi cali di vendite, 20-30%. GM e Ford sono, da un certo punto di vista, meno competitivi e quindi hanno perso più degli altri, e in più appunto si trovano, come hai detto tu prima, in una situazione di crisi di liquidità, per cui sono messi molto peggio dei loro concorrenti. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento dedicato alla difficoltà soprattutto americana nel settore dell'auto, e poi passiamo invece di nuovo al rapporto tra banche e imprese, soprattutto piccole e soprattutto quelle che hanno più bisogno dell'assistenza bancaria. Allora, Andrea Malan, chiariti i motivi per cui industriali, di mercato, General Motors e Ford sono, soprattutto GM, in questo mare di difficoltà, la soluzione quale potrebbe essere? Tra l'altro, possiamo dare anche, per far capire a tutti gli ascoltatori il livello della crisi, quanto capitalizza più o meno General Motors e il settore auto americano? Prego. Beh, dunque, oggi con un calo che in questo momento è attorno al 30% dell'azione GM, il titolo è sceso al di sotto dei 2 miliardi di dollari, quindi sono in euro, diciamo, 1,6 miliardi di euro. Come faceva notare un collega sabato, è una capitalizzazione che è al livello di quella di un titolo nostro come la Geox, il che per un'azienda che occupa 270.000 persone e comunque ancora l'anno scorso ha prodotto più di 9 milioni di automobili, è abbastanza impressionante. È abbastanza impressionante, ma come sappiamo la borsa guarda avanti e guarda alla capacità di produrre utili. Questa capacità nel caso di General Motors oggi non c'è, e anzi si fanno sempre più forti i timori che l'azienda possa anche non esistere più, o comunque non più nella forma attuale, nei prossimi mesi. Per cui possiamo solo citare, poi ti rilascio la parola, un report di oggi della Deutsche Bank che ha posto un prezzo obiettivo, un target price per la GM a zero, che significa che gli analisti della banca ritengono estremamente probabile l'ipotesi di un fallimento o di un'amministrazione controllata. Ora, siccome sono 280.000 dipendenti più l'indotto, io dubito che la nuova presidenza di Barack Obama possa permettersi di iniziare subito con mezzo milione di disoccupati a Detroit e, diciamo, nelle varie industrie e fabbriche della General Motors. La soluzione quale potrebbe essere? Si è parlato più volte di un matrimonio con Chrysler, si è detto che potrebbe esserci l'interesse di qualche grande costruttore mondiale, in primo luogo appunto la stessa, i giapponesi stessi, si è detto anche di Porsche, devo dire, ma anche la stessa Toyota poteva avere un interesse. Secondo te a questo punto come ne uscirà, come potrebbe uscirne? Beh, il matrimonio con Chrysler, sappiamo che le trattative sono state interrotte per un motivo molto semplice. Non c'erano i soldi per finanziarlo, perché sarebbe comunque costato, sarebbero costati gli esuberi, le chiusure, almeno si stima 10 miliardi di dollari, che non ci sono. Sono stati chiesti i soldi al governo americano, il governo ha già stanziato 25 miliardi di dollari, ma non ancora erogati, e su questi 25 miliardi sono proprio in corso le trattative frenetiche di questi giorni. tra appunto il congresso a maggioranza democratica, l'amministrazione Bush uscente e il presidente eletto Obama per arrivare a una erogazione la più rapida possibile che permetterebbe a GM Ford di avere, diciamo, un salvagente che li porti almeno nei primi mesi dell'anno prossimo. Dopodiché la richiesta di Detroit al congresso e all'amministrazione è di altri 25 miliardi, quindi per un totale di 50, che appunto dovrebbero permettere di traghettare un 2009 che sarà sicuramente difficilissimo. Non dimentichiamo che c'è un obiettivo di medio periodo, ed è quello a cui puntano appunto i colossi americani, cioè in base all'accordo sindacale negoziato l'anno scorso, dal 2010 i loro costi dovrebbero effettivamente ridursi, nel senso che i sindacati hanno accettato di rinunciare per salvare le aziende a una serie di coperture pensionistiche e sanitarie, per cui dal 2010 diciamo che il conto economico delle due aziende dovrebbe essere un po' migliore, ma il problema per loro in questo momento è proprio arrivarci. E vabbè, grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Ultima parte di Focus Economia. Allora, le banche e le industrie. La Banca Centrale Europea ha abbassato nell'arco di un mese il costo del denaro di un punto percentuale. L'Euribor è sceso, diciamo, a livelli più accettabili, intorno al 4,69%, 4,6%, eppure quello che noi registriamo, ripeto, in maniera molto empirica con email, sms, segnalazioni, è difficoltà degli artigiani, delle piccole imprese e anche delle medie a mantenere le linee di credito con gli stessi tassi o addirittura ad averle to cure. Ancora ci scrivono molti bancari: guardate che da noi l'ordine è stato giro di vite. Il sospetto è che le banche approfittino di un costo di denaro più basso, quindi a livello europeo, e con lo spread, cioè con la differenza tra il costo, tra quanto costa loro prendere soldi e quanto invece costa al loro cliente, questa differenza viene mantenuta invariata in modo da guadagnarci e ripianare debiti operati da altre controllate, soprattutto quelle che investivano in prodotti poi rivelatisi tossici. La difficoltà del mondo della metalmeccanica l'ha ricordata oggi il vicepresidente di Federmeccanica, che nel corso della presentazione dei dati congiunturali Miotto. Aziende di natura familiare, semifamiliare, con in generale anche basso conflitto sindacale, ma con problemi di liquidità, da sempre questo. L'investimento è fatto con mezzi che normalmente sono mezzi che vengono dalle banche. Quindi nel momento in cui ti trovi che per n fattori, il primo fattore è il fatto, non trascuriamo, si è cambiato il modo di valutare l'imprenditore. Noi eravamo abituati ad avere una valutazione fatta dal direttore della filiale. Oggi le banche sono diventate più grandi, oggi c'è Basilea, oggi già lì il metodo di valutazione è più asettico e quindi il rapporto stretto personale tra il piccolo imprenditore e il direttore di banca, che in qualche modo ti valutava per quello che sei come persona, non per i capitali che hai dietro, è venuto meno. E questo qui era già un problema. Qualcheduno lo diceva, io ricevevo telefonate da colleghi di piccole dimensioni che mi segnalavano questo tipo di problematica. Ci aggiunga l'obiettiva difficoltà attuale delle banche a reperire liquidità, per cui tendono a stringere, ed è chiaro che i miei colleghi, se prima io ricevevo, che so, una telefonata ogni 15 giorni, oggi io ricevo 2-3 telefonate al giorno di colleghi che mi dicono le loro difficoltà, che mi dicono: sai, avevo quella macchina in ordine e il leasing non mi finanzia la macchina. E questo poi come ricaduta finale quale ha? Quella che l'azienda che produce quella macchina rimane ferma, bloccata, e quindi a nostra volta abbiamo problemi di occupazione, non solo, cioè la catena parte sul piccolo ma poi si ripercuote anche su chi produce il macchinario. Così il vicepresidente di Federmeccanica Luciano Miotto. Presidente Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria e Confindustria, buonasera. Buonasera a voi. Anche lei riceve 2-3 telefonate al giorno, come raccontava Miotto, mentre prima era al massimo una ogni 2 settimane? No, purtroppo qualcuno in più, qualche mail in più e qualche messaggio in più. È quello che mi rattrista di più è che si discuta ancora se c'è o meno la stretta sul credito. Perché per voi la risposta è già chiara. Guardi, stanno arrivando altri messaggi di persone che lavorano in banca e dicono ordine dall'alto, rientrare su tutte le linee possibili. Abbiamo messo volutamente in difficoltà una marea di piccole imprese, me ne vergogno. Ora, io i numeri dei messaggi li vedo, come sempre, mi fido di qualunque messaggio, sia esso di critica o non di critica, e questi sono i messaggi che arrivano a noi. Allora, mi faccia capire una cosa, perché è vero che alcune banche, per esempio la BPM, ha fatto un mutuo legato non più all'Euribor, ma ai tassi della BCE, soprattutto per i clienti privati, mutui a tasso variabile. Unicredito ha lanciato un'operazione di sostegno alle PMI, un fondo da 5 miliardi di euro. Io vorrei capire, le lamentele che voi ricevete sono sparse sul territorio oppure ci sono delle zone, dei casi singoli? Perché Confindustria con l'ABI ha avviato un tavolo di confronto, anche tavoli territoriali, per vedere che poi nelle varie filiali, al di là delle dichiarazioni formali, non si compie un vero giro di vite. Ecco, questo è il punto fondamentale. Allora, io devo dire che il lavoro che si sta sviluppando al tavolo ABI Confindustria è un lavoro molto buono, però il giudizio definitivo noi lo potremo dare nel momento in cui le decisioni che vengono prese a quel tavolo ce le ritroviamo nella quotidianità aziendale, nei rapporti con il direttore della filiale con la quale operiamo. Io credo che ormai sia chiaro che una selettività del credito, secondo me anche eccessiva, sia in atto. Perché i segnali vengono dalle singole imprese, i segnali vengono dalla Banca Italia, i segnali vengono dalle indagini fatte dai Confidi. Noi abbiamo fatto tutte le analisi possibili e immaginabili, abbiamo fatto i raggi, abbiamo fatto le analisi del sangue, abbiamo capito che c'è della polmonite in giro. Io vorrei che finalmente ci si concentrasse su quelle che sono le vie d'uscita, la cura più che la diagnosi, e su questo non vedo ancora un dibattito costruttivo. E allora arriviamo alla cura. Lei citava la Banca d'Italia che venerdì scorso ha detto oltre il 40% delle imprese nell'indagine Banca Italia erano oltre 4.000 le imprese, oltre il 40% segnalava un deterioramento delle condizioni del credito, mentre la Banca Centrale Europea sempre venerdì ha detto nell'area euro il 65% delle banche ha reso più stringenti i requisiti richiesti per erogare prestiti, nessuna li ha allentati, nonostante il calo del tasso della Banca Centrale Europea, nonostante scusatemi, i prestiti concessi in liquidità dalla Banca Centrale Europea. Le chiedo, non è che le banche hanno paura perché vedono la recessione in corso? Ci troviamo in una crisi che non è la prima crisi in assoluto che affrontiamo, probabilmente la più complessa perché c'è un lineamento incredibile mai realizzato prima di fattori negativi. Abbiamo la crisi del credito, la crisi della finanza, abbiamo i costi energetici, abbiamo avuto i costi delle materie prime fino a qualche mese fa, abbiamo un grande calo di consumo e un grande calo di ordini nelle nostre aziende, però i problemi sono lì per essere affrontati. Allora io voglio due cose che siano chiare. La prima, che non può essere né la piccola impresa, né i nostri dipendenti, né le nostre famiglie a pagare per colpe che non abbiamo. Noi nella nostra attività abbiamo sempre garantito, con firme e garanzie reali, quanto noi investivamo. E la seconda cosa, non può essere Basilea 2 il comodo paravento dietro il quale dire di no a qualsiasi nuova concessione di credito. Sono i due punti fondamentali sui quali dobbiamo fare chiarezza, e su questi punti fondamentali, assieme anche al governo che deve avere finalmente un ruolo decisivo, bisogna individuare la strada, la via d'uscita da questa crisi. Allora, mi dica le soluzioni, perché tanto le banche, uno può fare moral suasion, può insistere, però se poi il direttore di filiale ha una certa un certo ordine, è difficile che poi le banche vadano in direzione contraria. La Banca Centrale Europea citava tutte le banche europee. Nel caso in cui le banche continuassero a essere molto molto più selettive nel concedere prestiti, anche a chi li ha sempre ripagati, sappiamo questa crisi non l'hanno creata diciamo le imprese e i lavoratori, l'hanno creata i geni della finanza Wall Street, però che cosa chiedete al governo, cioè che iniziativa attendete, immaginando che comunque il mondo del credito non apra, non torni ad allentare i cordoni come faceva prima? Allora, al governo tre cose. Una, finalmente azionare la leva fiscale in modo da garantire la patrimonializzazione delle nostre imprese e una migliore gestione della liquidità. Due, smobilizzare 70 miliardi di crediti che avanziamo dalla pubblica amministrazione. Tre, rifinanziare il fondo di garanzia, un fondo di garanzia che permette di innescare un grande volano di investimenti. Alle banche, trasparenza sul rating. Noi vogliamo essere informati su quali sono i fattori determinanti nell'andare a definire il rating, il nostro numero sulla maglietta col quale possiamo giocare. E nella definizione del rating non si può dimenticare la storia della nostra azienda, il valore dei nostri uomini, il valore dei nostri prodotti. E quindi iniziativa fiscale del governo, che la pubblica amministrazione paghi i circa 6 miliardi di debiti che ha con le piccole e medie, anche le grandi imprese, e poi attenzione anche al voto, cioè come viene giudicata l'impresa. Non facciamo di tutto un erbo un fascio e non chiudiamo i rubinetti, se posso andare avanti con questo ragionamento, a tutti in maniera indiscriminata. Certo è, lo scrivono gli ascoltatori, che se in questi anni le banche europee, soprattutto, non è un caso italiano in questo senso, invece che investire miliardate di euro in prodotti altamente speculativi e poi tossici, le avessero buttate sul territorio creando sviluppo un po' di più, forse reggeremo meglio anche questa crisi economica, forse, ma comunque non lo sapremo mai. Grazie al presidente della piccola industria Giuseppe Morandini. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.